Fa una certa impressione sapere che il prossimo 27 maggio, subito dopo il turno elettorale amministrativo, la Camera dei Deputati approverà senza modifiche né emendamenti una legge che in pratica nega i diritti civili di base dei lavoratori immigrati nel nostro paese dal sud e dall'est del mondo, quelli che con caratteristica ipocrisia burocratica si sogliono chiamare gli extracomunitari. Fa ancora più impressione apprendere che se quel turpissimo voto sarà debitamente blindato, come si usa dire, non dipenderà soltanto dall'esorbitante maggioranza di cui la destra dispone in Parlamento grazie alla legge elettorale, ma dal fatto che i deputati del centro-sinistra, per bocca dell'onorevole Violante, si sono rimanciati qualsiasi proposito di ostruzionismo. I loro partiti pare non sono particolarmente propensi a impegnarsi alla vigilia dell'amministrativa e nella difesa di certi valori che, per quanto importanti, non sembrano far presa sull'elettorato. E se questo significa rincorrere la destra sul suo terreno e svendere in nome di una strategia che si è già rivelata fallimentare la propria funzione democratica, beh, non è la prima volta e non sarà probabilmente l'ultima. Ma fa molta più impressione, forse, leggere in prima pagina che il Presidente della Repubblica, che non ha problemi di rielezione, non è tenuto a preoccuparsi degli umori dell'elettorato e soprattutto dovrebbe badare nell'esercizio delle sue funzioni più ai valori di fondo che alle meschinerie della politica corrente, ha colto l'occasione di una visita ufficiale in Marocco per avallare con l'autorevolezza che gli è propria le tentazioni razziste che, diciamo così, serpeggiano tra i partiti. Per spiegare, nell'ennesima interpretazione di un ruolo super parte schiacciato su una parte, che la politica delle porte chiuse e dei diritti negati non è uno scandalo nazionale, ma una necessità da cui non si può prescindere. Non c'è posto, ha spiegato Ciampi agli ossequienti notabili marocchini. Anche se nessuno di One Scampi intende escludere la continuazione dei flussi migratori, e va ricordato che l'Italia e l'Europa hanno una limitata capacità di accoglimento e di offerta di decolosi e stabili prospettive di vita e di lavoro, se non altro perché non abbiamo gli spazi e le risorse naturali dei grandi paesi oltreoceanici. È opportuno così governare il fenomeno, anche per arginare i sentimenti impauriti di un'Europa sempre più tentata di chiudersi. Insomma, se l'Europa si chiude, espressione che immagino rappresenti un delicato eufemismo per alludere alla ripresa di razzismo testimoniata oltre che dalla pratica quotidiana dal voto crescente ai partiti dei vari bossi Fini, Haider, Fortuyn e Le Pen, se l'Europa si chiude non ha tutti i torti. Capirete, siamo 377 milioni di europei contro 161 di Nord Africa e Medio Oriente e i primi destinati a non crescere mentre i secondi dovrebbero raddoppiare entro 2030. Ed è quasi fatale che i 12 milioni di nordafricani presenti nell'Unione Europea siano presto seguiti da molti compatrioti. E perbacco, come si fa? Qualcuno lo accoglieremo ancora, figuriamoci. Con la fame che abbiamo di golf, badanti, raccoglitori di pomidoro e lavoratori manuali in genere, ma più di tanto non possiamo fare. L'emigrazione, dice il Ciampi, va accompagnata dallo sviluppo degli scambi internazionali e dal trasferimento di capitali e tecnologie da nord a sud, che, lo avete notato anche voi, una variante particolarmente raffinata del classico non restino a casa loro che è meglio. Naturalmente non sarebbe difficile confutare l'analisi presidenziale. Basterebbe ricordare al buon Ciampi che in fondo se la gente qui continua a venire perché sa che di posto almeno per ora ce n'è, che più che confrontare l'entità delle popolazioni bisognerebbe considerare il divario delle risorse e soprattutto che uno che ha fatto per tutta la vita il banchiere come lui dovrebbe sapere che perché si sviluppino gli scambi tra nord e sud sarebbe utile che a sud avessero qualcosa da scambiare oltre alle proprie braccia. I capitali e le tecnologie non li trasferisce mai nessuno, a meno che non si aspetti un tornaconto adeguato, il che è appunto il problema. Quello di favorire lo sviluppo dei paesi da cui vengono gli emigranti per rendere inutile l'emigrazione è un discorso che fa una bella impressione, ma nei termini generici in cui lo si fa non serve a nessuno, se non come vago auspicio per il futuro, mentre il problema di come trattare con giustizia chiunque viva e lavori nel nostro paese è drammaticamente presente. Ma una confutazione del genere sarebbe più che altro inutile. Io ho l'impressione che a Ciampi, come leader del centro-destra e presumibilmente a quelli del centro-sinistra, il tema dello sviluppo futuro dei rapporti tra il nord e il sud del mondo interessi solo come argomentazione retorica. Di fatto sono tutti troppo occupati a inseguire, a cavalcare, a coccolare, vedete un po' voi, le paure, i pregiudizi e le pulsioni razziste che allignano in questo felice paese. Un paese che si è sempre autoassolto da ogni accusa in merito e si è sempre vantato della sua tolleranza, ma quando si arriva al dunque è pronto a sposare con entusiasmo l'egoismo di chi ha qualcosa nei confronti di chi non ha niente. Intendiamoci, le garbate futilità che il presidente ha profuso in Marocco non sono in sé di stampo razzista, non hanno nulla a che fare con le bestialità che sparano certi leghisti o con la normativa illiberale che il Parlamento sta per approvare. Ma con il razzismo hanno qualcosa a che fare lo stesso, nel senso che in ultima analisi servono a giustificarlo. Autorizzano una quantità di cittadini per bene a cedere alla paura del diverso senza la sgradevole necessità di sottoscrivere i programmi dei vari Berghezio. Spiegano che non è necessario essere razzisti per approvare una normativa restrittiva e che non va considerato necessariamente di destra chi pensa che di negri in Padania, di albanesi in Puglia ce ne siano già troppi. Vanno incontro, insomma, al bisogno di rispettabilità della destra e alla cattiva coscienza di una sinistra che ha perso il senso del significato etico delle proprie scelte. Deve essere questo che si intende per spirito bipartisan. I feel like life is really just like braided hair, 'cause it's so like twist. You know.